se lei non si decide andarsene da qua, inutile di volta pagando un condominio in Oghi e poi essendo in campagna, cioè qua devo pagare il condominio, i lavori che sono da fare e tutto e andarmene. No, io vendo così non pago più niente, sennò devo continuare a pagare in Oghi e tanto vale mi rimango in Oghi e me la fruttano. Infatti proprio così. No, ma anche da me c'è tutto, c'è l'acqua comunale, nonostante c'è il pozzo da noi anche, c'è la luce, c'è il telefono, c'è tutto anche da noi. E la casa va giù, 4 gammari, il bagno, la veranda, poi c'è a fianco c'è la casa di mia cognata che gliel'ho fatta io, però è staccata la casa sua, è vicino, a fianco. E lei vive lì, capito? Se voglio mi succedo, però boh, a me moglie mi piace fare un po' quella bimba, non se ne può alzare. E' abituata qua, oramai. E come mia moglie, grazie. Come mia moglie, lei guida, c'è la macchina, c'è tutto, c'è, non ce n'è problema, però io non me la sento perché, ti ripeto, se io vado via da qua, chiudo tutto e me ne vado, sarro e mi trasferisco lasciando tutto così com'è, devo continuare a pagare, il condominio è 120 euro, cioè devo pagare 120 euro al mese senza sfruttare niente, e i lavori che ci sono da fare, adesso stanno portando tutti gli alberi, tutti, cimando gli alberi, portandoli, pulendo, facendo, e tutti i giorni autoscala, motoseghi, insetti, otto, giù. Lo sai quanto costa? Ne hanno tagliato un albero, un pino, perché l'agronomo ha detto che era pericolante. E mi pare che è costato più di 1500 euro solo a tagliare quel pino. Quindi anche lì devi mettere i soldi. Poi devono fare il prato, poi devono fare quello, cioè, cazzo, devo bagare senza abitarvi, no? Vendo, me ne vado e si arrangia il padrone nuovo, così almeno futta a me. Ma lo posso bagare. E poi, senza quello, e l'IMU non lo conti. La Tari non la conti, cosa pensi che non ti la mandano? Allora? È logico, anche io in campagna ne pago due di tassa e monvezza. Vabbè, quella in campagna ce la dividiamo con mia cognata, però sempre bagara di tutta anche la strada ci fanno pagare, la tassa della strada. Tutto a pagamento. Tutto baghi, grazie a buono l'aria che respiri, baghi, capito? Paghi anche l'aria che respiri. Quella è stata fatta, è stata presa da un bifamiliare proprio per fare questa cosa. Se però mia moglie non si decide, cosa vuoi ti faccio io? Aspettiamo. È in vendita, ce l'ha la Tecnocasa, anche l'altro giorno c'era gente, però io regalo non la doggo, io oggi bagarda con tanti sacrifici, se mi danno quello che dico io va bene, se no rimane qua, a me non futti nulla. Caro Grillo, lo sai cosa che magari in città si trova più bene, perché invece di scimmac la buisci a piedi, gli ridango le vestiti visto che vuoi. Magari lì devi pigliare la macchina, sta di città, compreso. E già è pesante, perché io, ti ripeto, mi facevo l'asta e fara, però già mi lamentavo un bel volte. Per le volte che il signore Travaglini ha stato 4-5 bus, o a pigliare o a pigliare d'altro, anche se non li trovavo lì vicino, anche se c'era l'USP. Sempre fastidio mi dava, devi alzare il farasso. Sì, capito, tio, però no, non è così. Ci vado. Sono restate, no, avevo restate già tutti i voti. Il fatto è che mia figlia è incazzata nera, perché c'ho la mansarda piena di mobili. Capito? Più quelli che sono lì, perciò. Vabbè, comunque, si vedrà. Se vendo mi trasferisco, se no mi rimango in occhi. Non è un problema, è un investimento, perché c'è mia figlia lì, se no me l'avevi affittata, non vuole nessuno mia figlia in mezzo alle balle. Lugariello, c'è nessuno? Maricomio, dove sei? Ho nessuno manca il 23. Luca, che tu sarai preparandosi la graviglia ma farsi le bistecchine di asinello. Tu non che da mania di garriraino? Alla fine invece ci sarò da fare i-o. Ma no, l'altra settimana già me le ha procurate, mi ha detto. Me le deve portare. O andiamo a pigliarmi. Sì, martedì. Martedì prossimo li ordino io. Mi sono metticato questo martedì, capito? Martedì prossimo, alla prossima settimana li ordino anche io. Me le faccio portare. A vedere se è tenera, se non è tenera della tua pittorra. No, vabbè, se per quella che mi ha sempre dato, che mi ha portato, è sempre stata buona, la tenera, non... buona appunto. Sì, adesso vediamo, la prossima settimana, ma l'ha letto, ogni martedì bisogna fare l'ordine. Lo dico a lui, me la faccio ordinare, e poi scendo e me la prendo a casa sua, capito? Io ho nato un pensarete, io la voglio mangiare la mia figliola, la mia moglie, noi che ne mangio io assai, l'assaggio è buono. Ah, mia figlia ha carne d'asino e carne di cavallo, ne vuole sapere, carne rossa non ne mangia solo carne bianca, capito? Io e mia moglie già la mangiamo, infatti la prendo, la condisco, la porto in campagna e la porto a Ruzzo. Dammi 2 minuti, grazie, arrivo subito. Ehi, io... E bello a farregne, dici. Me lo dai un giro di motoretta. Ciao, Giulio, e bello. Ciao, grazie. Me lo fai fare un giro di motoretta, sì o no? Ehi, tanto farà le punti. Ti chiamo. Scende e ti faccio fare il giretto. Lo giro sul palazzo vuoto. Già cammina, amico. Già lo credo che cammina. Caspita, quanto dura la batteria carica, Grazia? Quante ore dura? Ho una carica di batteria, faccio 60 chilometri. Già è buono. È buono intanto per cosa usi, per andare a fare la spesa lì magari nel quartiere tuo stesso, ma cosa lo fai, non è che puoi andare lontano, no? Pure all'Eurospin vado io con quella, mi apre Danieta a Sassari, vabbè io vado qua e vai sì all'Eurospin, lo credo. Come quello puoi andare anche in città, non c'è problema, no? Puoi andare pure in città e via a fare Pisa. Sto facendo tutte verdure, senso, già giro già. Già lo credo. E la ricarica poi, per ricaricare la batteria quanto ci impiega? Un'ora? Dalle 3 alle 4 ore, l'altro giorno l'ho attaccata a mezzogiorno e mezzo, sono sceso alle 5 e mezza era a carica e poi quando è che una volta che carica è come il telefonino, automaticamente si stacca il caricabatterie, capito? Lo so, c'è la protezione, sì e beh certo, già va bene, ma è molto grande la batteria, è come dimensioni? No, sono 3 batterie, sono 20 di lunghezza, 10 di larghezza e 20 di altezza, 3 ne ho sotto la sella, c'è un tappo, alzo quel tappo con lo sportello, non lo puoi anche levare in plastica, in cazzo, e vedi tutte e 3 le batterie. Qua sono, ciao Giù. Ciao Cla. Ho capito. Vabbè, allora praticamente cosa sono? Tutti in parallelo sono o in serie? Se sono in serie sono a 12 volt l'una, sarebbero 36 volt praticamente, così è? No, mi pare sono 48 volt, adesso non me lo ricordo, ma c'è scritto, perché se chini la testa, vedi il cassettone dove sono le batterie, sotto dalla parte di dietro, non dalla mostra. E c'è scritto, si legge lì la parte di accapi. E praticamente cosa ti posso dire? Sarà quante una finanza e come larghezza, diciamo. Oh, essendo una sola, invece sono tre piccole così. Ho capito, dovrebbero essere 12 volt per ogni batteria, sicché se sono messe in serie diventano 36 volt. Però tu mi stai dicendo 48, ma forse sono 48 watt quello lì. Quella sarà la potenza del motore, sarà così 48 watt. E poi anzi, non. Poi la gabbata dovrebbe, però, un po' di pleanche. Sicuro che 48 watt. C'è l'inglese. Non è come... Penso di sì, è proprio così qua. Pure oggi già... sì. Gli ho scritto un messaggio che avevo mandato a loro e mi hanno mandato una risposta e l'ho trasferita a mia nipote per gusto, capito? Ho capito. Ma è così, grazie, sicuramente è così, ogni batteria sono 12 volt, magari messi tutte e tre in serie e diventano 36 volt, per 48 watt, sicuramente è così. E in salita, l'hai provata, come va in salita? Usate in due, guarda che io già lo sai il mio garage dove è qua, no? C'è quella discesa rapida. Beh, schiaccio il tassino, prima uno e... Rapida, non ripida. Chiudo la metto a numero due, cazzo ci sale a razzo. Ho capito, grazie. Insomma, c'è una salita ripida, c'è, no? E tu la vuoi fare a razzo, no? vabbè, andiamo andare così. Meglio così, poi quando tieniti sempre la batteria a carica, così a ogni evenienza ce l'hai pronta. Caso che devi uscire magari così per un motivo qualsiasi, improvvisamente, tu la batteria te la tieni sempre a carica e la motoretta ce l'hai sempre pronta. Quando io arrivo a metà, appena più poco di metà, l'attacco giù sotto carica. Poi l'attacco e la copro, cioè anche il telone, anche se in garage la copro lo stesso, per la polvere. Tutto il punto, si basta i bimbi, fanno i zocchi, rumori, lo più vanno, lo creano. Ho capito. Ma ci sarà anche qualche strumentino che ti dice la quantità della carica anche della batteria. Suppongo che ci sia uno strumentino che ti segnala la carica della batteria, quanto c'è o quanto ce n'è. Sì, nel quadro, nel display, dove mi segna i chilometri, c'è il disegno della carica batteria e le tacchette, capito? E poi c'è anche il disegno dove mi segna la velocità, i chilometri, tutto mi segna, come tu conta chilometri di macchina. E c'è tutto qua, c'è anche la retromarcia, c'è l'allarme, cado lo sgarro quando chiudo il manubrio, diciamo. Poi premo col telecomando che c'è in dotazione e mi inserisco l'allarme, tu come ti batti vicino, girazione, sono azzurro e si illumina già tutta e suona, faccio un po' di casino, come le mani. Ho capito, meglio così, va bene, auguri, a godertene quanto vuoi, avanti Claudio. Ehi, già l'ho vista, una bella moto, già va bene, però grazie, come stai dicendo Giulio, capito? 36 volt e 48 watt, è impossibile sia 48 volt, è così, tre batterie già, sono 36, capito? Quindi è così, è 48 watt, che 48 watt è già abbastanza potente, dai. E beh Giulio, che si dice? Ho la radio acceso una mezz'oretta, ancora non si è sentito nessuno, ma te stai accendendo il PMR, probabilmente c'è qualcuno lì, E così è infatti. E ieri sera abbiamo fatto un bel questione lungo con Gianfranco e questo Claudio di Porto Torres. Per cui, ma a livello di un paio d'ore, forse anche di più, anzi senza forse di più. Abbiamo iniziato, saranno state le 5, 5 e mezza e abbiamo finito intorno alle 8, circa ti puoi immaginare. Una bella chiacchierata che abbiamo fatto. Tranquilli, non è entrato nessuno, solo c'è stato un piccolo approccio da parte di Emanuele, ma è andato via subito, quasi subito, là. Io c'ero l'altro giorno sul 10, portante, la vigna, giusto vado tutto. E sono passato qua, è così pulito, tranquillo, me l'ha fottenuta. È una cosa allucinante, il portante ancora, non lo so. Sì, lo conosco bene a Claudio, io. È il padre di un radioamatore, di un carissimo amico, a parte il fatto che ci conosciamo molto molto bene. E c'è una bella zona, da me arriva quasi 9 più 10 arriva, e non va nuda, non ha lineare, c'è solo la radio, c'è una Game Master e la Mantova, non so che antenna stava usando, comunque abita in una zona molto alta di Porto Torres, abita lì nella zona del faro, capito? Quindi è davanti proprio a Sassari, perché da casa mia si vede il faro di Porto Torres, si deve vedere, è chiaro, la punta più alta per il mare, no? Il riferimento per l'ingresso del porto, quindi abita proprio lì quella zona. Avanti, grazie. Eia, l'altro giorno lo sai quanta gente me la guardava, caspita bella, li facevano le fotografie, ma la posso vedere a me moglie, adesso lo faccio vedere a mio padre, proprio bella, addirittura una mi ha domandato se li illuminati, cazzo mi ha preoccupato della vendata. Se vuole le do l'indirizzo, l'email e mi contatta, se la compra, non c'ho problemi. Ha un sacco di gente che me la vede, si la vende, piglia un telefono e si fa e fate le fotografie, perché a Sassari così non ce l'ha nessuno. Quella che ci sono alla piazzetta, non mi piace, sì è bello la facciata per di dietro di chissà motoretta, non mi piace, è quadrata. No, una bella moto, ma è per quello che te la guardano, perché non c'era nessuno, così io non l'avevo mai vista. Ho visto la fotografia e non l'avevo mai vista, capito? Esteticamente è molto più bella di quelle che ci sono in giro, quindi è chiaro che la guardano e ti fanno le domande, no? E tu rispondi. Tu dilli, te la vendi lo doppio, grazie, te la vai di là, a voi te ne compareggi un'altra. Avanti, Giulio. Sì, è vero. Se tu fai un prezzo e te la comprano all'istante, da via, tu te ne compareggi un'altra. Ci guadagni qualcosina, no? Certo, grazie, no, è fatto bene, visto considerato. Per le tue esigenze va più che bene, dai, una motoretta così. Anche perché, soprattutto ad esempio, tanto per fare un esempio, se devi andare a fare una commissione nella città di Sassari, dove c'è la cosa, come si dice, la zona ZTL, o vuota accidente da Giammani, e lì puoi passare con quella, no? Però quando lo chiudono con quella puoi passare, vero grazie? Dappertutto posso passare con quella, anche dove passa solo il tram. Posso passare anche lì, nella pista ciclabile, sui marciapiedi, nella strada, perché è omologata, però se eviti gli ingorghi è meglio, ma dice un matrone. Perché con questa, dove devi andare, fai più veloce di andarsi a entrare in macchina. In effetti è vero, faccio un sacco in fretta, la strada immaginata. Tutti un quartiere, no, che tutti un quartiere di durati, no, se la vuoi, ma neanche in mezz'ora. E ho fatto un giro così. Appena mi bisogno che sia camminata. Io credo, appena, io credo che bisogna fare tutta la strada. Hai fatto bene a comprare, dai, tanto, visto considerato che non guidi più la macchina. Quella la macchina normale, almeno quella se non altro, se hai necessità di spostarti ti puoi spostare con quella, non è problema. Andare. L'unico problema è che magari quando piove non puoi uscire, quello sì, perché si sa, il TV, leva non ti ripara. Però noi dito che devi uscire per portare, quando facevano, assolutamente no, ci mancherebbe altro, grazie. Ma lo sai che ci sto facendo un pensierino, siccome è come quella, c'è anche chiusa e posso sedere in due persone, una persona lo stesso dietro, c'è anche chiusa con due sportelli per la radio, metto una macchina, però è chiusa, c'è anche col tettuccio apribile, capito, com'è una vettura, c'è anche chiusa rossa, bianca, blu, tutti i colori. E ci sto pensando, a pigliarmi i brumi sacchi per quando piove. Ho capito, grazie. Beh, certo. E così, a titolo di curiosità, cosa costa? Me lo puoi dire? Se me lo puoi, se no non fa niente. Questa mi è venuta tra una cosa e l'altra a 1900 euro, però ho dovuto aspettare un mese e mezzo per via del Covid e tutti i casini, se no in un mesetto ci mette a arrivare, capito? Perché arriva dalla Gran Bretagna, io l'ho presa direttamente dalla Brabica, non ne ho preso o da quelli che sponsorizzano le moto così, capito? Direttamente alla fabbrica io ho mandato il messaggio, e mi hanno risposto che mi la via. Ho capito, hai fatto bene, grazie. Hai fatto bene, perché non credo che a Sassari a quel prezzo l'avresti comprata, no? Assolutamente no. Proprio ieri stavo guardando, stavo guardando, sul telefonino mi sono apparsi un po' di monopattini, no? Quelli elettrici che si usano oggi. Dice che il governo ha regalato agli italiani praticamente, regalate per modo da dire, no? E c'erano monopattini addirittura a 1100, 1200 euro. E quello che costava meno di tutti era intorno ai 560, mi sembra, se ricordo bene. Perché a quel prezzo hai fatto bene, è tutta un'altra musica, anche perché quella rimani seduto, eccetera. Invece col monopattino cosa fai? Devi rimanere dritto in piedi come ce lo saremmo. Hai fatto bene a comprarlo fuori direttamente. Va bene, avanti qua. Infatti. Quelli costano poco, quelli che comprano con gli incentivi che gli ha dato lo Stato, invece da mangiare niente che muore dei fame, capito? Grazie, ma vedo, non ve ne è problema, io faccio un ombrellone, mannomi, di quelli da bar, se voi di Robbiazzo, allo centro, Eva non ti entra, puoi uscire pure quando fa seva. Perché quando avanti ieri che sono uscito non stava piovendo? Forse mezzogiorno, sono andato a pigliarmi i mulieri, chi va a Sant'Orsola, al supermercato, e se non stava piovendo, già mi sono abituato a leva, non che non mi sono abituato, ma ci sempre travagliato pure a cavaleva, non mi asciuga a me leva, ma però per dire, volendo, c'è anche tutta chiusa, è bella, amico. È come questa la moto, però è gabinata, capito? Tipo i vecchi tassi, te li ricordi, quelli verdi, Claudio, non so se quello, che erano a tre ruti, conosciuti? Certo che li ho conosciuti, ho via una gappottina. Ah, c'è, già c'è, a Napoli è pieno di quella cosa. Io quando sono andato a Capri, capito? Ci sono quelli lì, ci sono quelle moto così, uguale a chissà doia, con la gappottina, lo sportellino laterale, e si possono sedere due persone dietro. Se ne ha drono, e te ce l'hai ne ha drono, Giulio? No, qua non si è sentito, per niente qua. Magari arriva fra un po'. Giulio, deve essere dalle parti o di Porto Torres o da qualche parte sta piovendo forte. Qua ancora non è arrivata, ma fra poco. Aspetta venerdì e sabato, salviamoci, c'è allerta meteo per il nord di Sardegna, proprio nord Sardegna, specifico, allerta meteo dalla prefettura, dalla protezione civile. Stavo guardando il coso appunto che mandano sul computer, vabbè, ecco a Castelsardo il casino che ha fatto questa tromba marina. Stavo leggendo il giornale, stavo leggendo, sì, l'ho sentito, e non solo la tromba marina, anche l'acqua ha fatto un po' di danni. Ma stamattina qui ha incominciato a suonare alle 5 e mezzo, alle 6 del mattino, gna drono, babbo, e gna lampo. Infatti a quell'ora mi sono alzato e ho staccato l'antenna del baracchino e anche la spina dell'alimentatore. E gli battesi a me, che mi frega come mi ha fregato già un'altra volta qualche anno fa. E allora l'ho tolto l'antenna. Va bene, è tutta diversa da quella che avevo prima, però non si sa mai. E così ho fatto. Alle 6 di mattino, prima anche, 5 e mezzo, una cosa del genere. Poi ha piovuto fortissimo anche. Vai, grazie. Grazie. Ehi, già. Mi sono assenni i nuvoloni dalla parte di Alghero. Quella zona lì, tutto nuvole. Già ha fatto un casino Alghero, che ha stancato mia sorella. È tutto allagato da stamane, tutto un imbarriale. Quelle i tuoni che sentivi è l'acqua forte, Giulio. È iniziata alle 4 e mezza del mattino ad Alghero, fortissima, e poi è arrivata verso qua, a vai torrendo ai oghi. Capito? Però noi abbiamo avuto tregua perché in linea di massima, una giornata insomma più che normale. Ma venerdì inizia dall'una di notte a piovere, ma forte, forte, forte. E ne ha per tutto il giorno, capito? Senza tregua, proprio temporale senza tregua, e c'è l'allerta meteo perché c'è la paura appunto degli allagamenti, delle cose. Voi a Sassari, che non ha neanche tanto nuda, sto pensando alle votazioni, sto pensando alla Boltrona, invece di pulire le caratoie, di pulire i tombini, di pulire le strade e togliere tutte le foglie, no? Sto pensando a posarsi in poltrona. Infatti, ma non è da molto che è saltato di nuovo quel tombino che c'era in via Pascoli di fronte al rifornitore. Tutte le volte che piove un pochino forte salta quel tombino lì, e insomma è anche pericoloso perché passa uno con la moto di gaggio dentro al tombino di gaggio e fa una bella caduta. Tu mi dirai, ma quando sta piovendo forte uno in moto non dovrebbe uscire, e perché no, si può trovare anche in strada e improvvisamente così piove, finché la macchina, vabbè, anche la ruota della macchina può fare danno alla macchina, ma non penso che succeda niente alle persone. Ma se passa uno con la moto il problema può essere grave. Avanti, grazie. Guarda che un anno a un parente mio lì vicino ai giardini lì dell'agraria ci mancava il tombino, poi era tutta la bozza in leva, separato con la rosa e le barrate, tutto l'ambantreno gli ha spaccato, e l'ha lasciata lì. La macchina ha chiamato i vigili e l'hanno pagato tutti i danni, l'hanno pagato, e mi mancava il tombino, mi mancava la forza dell'acqua, me l'ha sputato fu. Ed era cammini vicino al marciapiede, in macchina, e si è incrassata la mano. Gli hanno pagato tutti i danni, li hanno pagati. Hai capito? Infatti poi quel tombino l'hanno saldato. Copiato. Sì, ho copiato. Magari l'hanno saldato e poi l'acqua come finiva? Non è possibile. Lo devono pulire, vabbè, pulire tutti gli scarichi che ci sono. Non c'è uno scarico, capita, pulito, viene poco di melma dentro. E poi fin quando non succede il danno non si decidono a pulire questi tombini. Ma quando mai? Sai che sta per arrivare l'autunno, il periodo delle piogge, eccetera. Manda gli uomini, capita, a tutti i tombini, così almeno in caso di pioggia torrenziale c'è lo scarico che funziona. Invece da maniera non funziona proprio. Vai, che è qua. No, ma non ne puliscono proprio, non è problema di fare, non ne puliscono proprio, capito? Non ne da futti nuda nessuno. Perché anche qua, nella zona del Carbonate, la stessa cosa, ci sono le poste via Forlanini, era tutto allagato, è entrata l'acqua nelle poste, proprio a causa dei tombini non puliti. Alza. Bella vergogna, non è possibile che una città debba essere sempre in queste condizioni. Ma non solo Sassari, ma anche Cagliari, giorni or sono, lo stesso discorso, perché c'era una specie di nubifragio e si è allagato Cagliari, si è allagato, perché anche lì i tombini non sono stati puliti, dunque non potevano scaricare bene, perché erano tutti otturati dalla mondezza. Incredibile, avanti, grazie. Se la via qua sotto a casa, tutta la via qua, che poi va a finire in chiesa, cioè già facciamo una stessa, l'ha avuto tutto il pezzo grande che c'è davanti alla finestra di cucina, chi danerebbe a tutti i miei mulieri con la zappita, si ha buscato quattro sacconi di erba, se faceva schifo, almeno adesso è pulito, non c'è un filo d'erba. Prima arrivavano a mezza strada e se porta mia moglie e ce l'ha pulito tutto, è dato il comune, non ci manda mai a nessuno a pulire, anche il cortile che c'è sotto qua, e non lo pulisce sempre mia moglie, mi buca quattro circosacconi di erba e mondezza. Ti pare una cosa aiuta a te, eh? Io la giovanità la carriera di latri. Anche quelli che abitano più giù hanno fatto la stessa cosa, e chi viene in bustolina, 10 euro per uno, e l'ha fatto un ragazzo, e anche Vascuni ha pulito, anche mia moglie gli ha pulito i Vascuni, anzi sta piantando i pianti in quel Vascuni, perché il comune non gliene frega un cazzo, hai compreso? Non era tutto, no, già sono là di tantissimi anni scendeva anche quel furgone che pulisce il bordo della strada, non va più parato né Mondadori né furgone, nessuno. Vabbè, ma infatti stanno pensando ai fatti loro, no? Non a nettare i Garreri, e a renderli un po' più piacevole anche da camminare, sul marciapiede non si può camminare. Tu immagina, cerca il marciapiede vicino a casa, che vi sono i rami, no? Delle aiuole che ci sono, insomma, che sono tutte all'interno del marciapiede. Non si può camminare, vogliono tutte pottate, pulite, nessuno, non ne vasi nessuno. Se vedi qui di fronte alla scuola, c'è un'aiuola lunga, no? E poi all'interno c'è la strada della scuola per entrare nel cancello. Viso che i mimosi, cazzo alboli sono diventati. Non ci vengono a pulire, per niente. No, non ne ha tutti nulla. Quello del grattacielo è pulito perché lì il condominio c'ha degli operai che vengono 3-4 volte all'anno e tagliano tutta l'erba, ne accogliono tutta la mondezza. Ma però del comune, solo là fa parte del comune, non ci viene nessuno. Oh, è proprio di fronte alla scuola. Si vede che si mimosi bari alberi, no aiole, no, alberi. Interessante. Riprendi Giulio. Beh, domani siamo. Una bella amministrazione abbiamo a Sassari, ma carità, è una vergogna, ragazzi. Non so, adesso lì dal latte dolce. Stavo leggendo proprio oggi che scendete magari in piazza per protestare perché ci sono tutte le strade da riparare, tutti pieni di busi, proprio sul giornale di oggi l'ho letto, al computer però, non sulla carta, al computer, ma era una notizia che è stata pubblicata sul giornale di oggi, una vagogna a viroga, e vabbè. Avanti, grazie. Avanti un mico, una motoretta. Ah, se buone prima fila, con un cartello. Vogliamo le strade riparate. Scrivi un bel cartello mano a mano e fai così. Guarda che io quando che mi avanzava all'impasto, mi riponiare i sacchi di plastica e sicuro, mi rassavano che mi tappavo tutti i borsi della strada, sotto a casa. E vai torna una grufina. La che è passata una signora del palazzo, ma mi è rimasto un po' di fatto perché ha fatto dei lavori in casa e farà da Dio se ha tappato un buco. Se fanno schifo qua, se farendo lì, si mettono un vino di lavogna sotto terra, beh un posto si passi qui, si morirà ruta in Trianuva. Per carità, fanno schifo, infatti io volevo riunire tutti noi e l'ho pagata questa dimondezza a vedere se ribiazzi, a vedere se farava, invece nessuno l'ha voluto fare. Beh domani siamo e vabbè, a proposito Cla, torniamo a quel discorso che un tempo fa avevi detto tu. Quando viene il lockdown, non entra più nessuno in frequenza. Non l'ho più sentito. Primo, Roberto Quadrato non l'ho più sentito. Robertino non ha più intriso. Da un bel po' di tempo ci manca Franco Di Sorso. Ci manca Giuseppe Tornado, non l'ha più intriso. E poi altri che adesso non mi vengono nemmeno in mente. Ah, quello vicino a casa tua che lo sentivate solamente voi. Fabio mi pare si chiama, non si è più sentito, insomma, Claudio Di Mulos non si è più sentito, insomma, avete proprio ragione, una volta che finisce il problema del lockdown, ecco che non entra più nessuno, e così è stato Cla. Se ve l'ho letto, cosa pensi che non ce l'abbia nessuno il baracchino a Sassi? Ce l'hanno tutti, capito? Ce l'hanno belli gente. Siccome erano costretti a stare a casa, e c'è Besci che riattacca il baracchino. Finito l'Udice Pero, gli stanerato, mi hanno staccato tutto e l'hanno rimesso dentro l'armadio, capito? Ma avevo ragione, sì. Ma era normale, gente che non si sentiva da anni, sono entrati tutti in pari. No, Roberto ci vediamo spesso, è impegnato al lavoro, sta facendo altro e poi la sera non ne ha voglia di stare in radio. Dice che qualche volta accende, allora di cena però non c'è nessuno, allora di cena non c'è nessuno. Lui durante il giorno lavora, capito? Quindi. Poi gli altri non lo so, non mi interessa. Non lo saccio, io ti ripeto, ogni tanto entro, però c'è sempre portante, soprattutto in quel periodo, infatti non ho più sentito a Gianni neanche, in 27. E quando entravo lì mettevano la portante, tra di Aghido buone la portante, cioè non ho più voglia di sentire queste stronzate, Giulio, capito? Se io me lo fai due chiacchiere, mi passo qua, non c'è nessuno, si chiacchiera tranquillamente, sento a tutti e tutti mi sentono, perché se devi entrare qua devi essere organizzato, altrimenti è inutile entrarci. Se no mi gira più le scatole a me stare non ti sento. Chi entra qua deve essere organizzato, se no è meglio che non entri, perché è una frequenza un po' particolare, quindi devi essere organizzato. Io entro qua, mi faccio due chiacchiere, poi a quell'ora mollo, boh, finito tutto. Sì, e beh certo, in effetti, è così. Lo so qua, e d'altronde la gente, non so cosa sta pensando, evidentemente non ne ha voglia proprio, o perlomeno vuole sfruttare gli ultimi giorni dell'estate, così delle belle giornate, perché tutto sommato ancora le giornate sono ancora discrete, sarà per quello. Il Bettino lo matese, che devo ricattino lo stesso, prima era sempre attaccato, dalla mattina alla sera l'ho sempre sentito, ma probabilmente quello va a scuola, poi la sera dovrà studiare, eccetera eccetera, però è già da un bel po' di tempo che non si è più sentito, per cui le scuole ancora mi sembra che non sono iniziate a Sassari, credo perlomeno, o forse l'ho iniziato ieri, boh, non me lo ricordo. E vabbè, vogliono così, facciano pure, non c'è problema. Vai, grazie. Ehi, mi tengo ogni drone. Anzi, via. Ehi, comunque. Ehi, il comune è una bomba, fanno schifo che ma io anche facendomi giro in moto qui ma c'è la mondezza che vedi i nuovi, i rulatti d'occhi sopra tutti dappertutto dove sono passato io per mondezza ma mondezza che cazzo minimo non abbassa lì venti rimurchi, se sei buono a Cugligno, tutta la mondezza che fai, e tutte le macchine vicine che vi sono arrombate, fasciate, mezzo smontate, macchine morte, fuggiti tu. Ma cari dai, ma inquinamento anche quello è un inquinamento, mi ha dato quell'articolo sul giornale per queste macchine che sono rottami, sono abbandonate così, ma quando mai il comune non se ne rende conto, ragazzi, se non provvede a farli ritirare, non è possibile, ragazzi, e soprattutto a far pagare le multe ai proprietari, perché uno non può abbandonare la macchina così, lasciarla a marcire così per strada, abbandonata praticamente. Siamo anche una vergogna noi, i cittadini, dopo più una massa di buchi, la maggior parte delle persone, già ci sono le persone come si deve, ma la maggior parte, guarda, pacari dai, grazie, vai Claudio. L'altro giorno ne ho filmato uno, stavo fumando dal poggiolo e arrivato con un motocarro e va via 4-5 bidoni di garraggio e uno scaldabagno, ha detto mi lumi fregato, ci siamo messo bene, l'ha giovato a caricare, ha pigliato i bidoni e li ha messi tutti in terra, bidone e tutto vicino al cassetto della Mondezza, poi ha preso, ha scaricato lo scaldabagno e l'ha appoggiato vicino al cassetto della Mondezza. L'ha giovato lo filmino, preso il numero di targa, inviato al comando della polizia municipale, perché c'è un sito proprio per queste cose. Quando Ginaldelli ha detto non è te tu, ha stato un gabbo tutto assultato, l'ha detto già ti arrivi a casa la contravenzione, non ti preoccupare, ha pigliato giù con il moto, gomma e partuto, come ti ha detto, me ne vado in fretta così non mi pigliano mai a dare, che me l'ha già fatto un filmino. Chissà cosa lei ha rivido, perché mi ha dato anche l'ok, perché c'è un sito dove tu entri, ok, proprio per i cittadini, e puoi fare queste cose. Poi in più, siccome ho un sacco di amici al comando della polizia municipale, tra l'altro con Gianni Serra ci conosciamo molto molto bene, sono andato direttamente al comando e l'ho girato ad un ufficiale che fa queste cose proprio dall'ecologia e ambiente, capito? Ad un maggiore, e mi ha detto questo, io già lo faccio bello, chissà cosa l'hanno fatto, usci impara. Io intanto l'abbiamo fatto la multa, da voi l'abbiamo dato 6 mesi di carina, l'abbiamo sequestrato pure un motocarro, perché non è possibile, hai visto in Inghilterra, ragazzi, chi non sta alle regole 10.000 sterline di contravenzione, così bisogna fare. No, mettere una piccola contravenzione, che c'è gente che lo fa apposta, lo fa, ragazzi, ad esempio a non mettersi la mascherina, e invece lì solo per non indossare la mascherina 10.000 euro di coso, cioè 10.000 sterline di multa in Inghilterra, e fatene bene, e lì la paghi, mica te la fate pagare avvio. E come stai dicendo tu, il filmato dipende anche da noi, perché quando vediamo uno che fa queste cose dovremmo prendere e fare veramente il filmino e poi portarlo ai vigili, in modo che li bastano macchine e portare in capo a certi porcaccioni. È così che deve funzionare. Vai, grazie. Ragazzo, li vengo, rinocchi, di tutte le bici lampade, venini, romanzano, in bio, sani, garcionetti. Lindo ma la mazzano, basso gli vi, vinne di più, mobili, lavatrici, i bicicletti, moto, più ne hai, più ne hai messa. E li gassonetti strapieni, ci passano in macchina e carreggiano, bene le lampade, tutti gli vi, 30 minuti, tutto correndo e si avviano. Hai capito? I nuovi hanno investigato sì, giù, buttando la spazzatura, gli hanno controllato la spazzatura, gli hanno appioppato la multa. E fate venire 24 ore su 24 i nuovi, a dire tutti cosa cazzo si lampano. E se no adalanta la farmacia, poi... Per carità, capita, non è possibile, non è possibile. E per quello che stavo dicendo poco fa, la maggior parte dei disastralesi sono tutti bucaccioni a riguardo di quel particolare lì. Però c'è gente anche dai paesi. L'altro giorno ho letto sul giornale, c'era uno che ha fatto roba di 50-60 chilometri, perché abita in paese, e ne ha portato la mondetta a Sassari. Dimmi tu, se uno che va in paese, magari viene a Sassari per questioni di lavoro, però se ne porta anche la mondetta e la scarica qua. Ma dimmi tu se queste sono cose da fare. Avanti, qua. Sì, ma stai tranquillo che anche questa non era di Sassari, perché è scesa una scala di Ciocca che farà tutta via Milano, quindi sicuramente doveva essere di Osci, lì, di quelle zone, o di qualche campagna, capito? E siccome sanno che ci sono questi cassonetti, perché ce ne sono da noi, c'è sì la differenziata, però la facciamo noi e poi la scarichiamo. Ce n'è un bel qua, perché il rione è un bel grande, che ce ne sono 7 in fila. In via La Malfa ce ne sono 14 di cassonetti, 7 all'altezza dell'edicola, 14, 7 per 3, 21 ce n'è, non 14, perché sono 7 dove c'è l'edicola, 7 vicino al palazzo mio e 7 dove ci sono le case popolari, quindi due mani, tutti diversi colori, eh? Quindi questo non era motocarrista di Sassari, perché i motocarristi di Sassari si conoscono, era un'app invece, un'app di chi si... antichi, tipo quella che ci avevi tu, me, capito? Una di quelle. Chissà da nera venendi, capito? E non ha regato il garraggio in occhio, ma già la giustizia mal dovessi. Già l'ho sistemato bene, non ti preoccupare. A vedere che non vi basta più a Sassari, chiscio. E se poi ha qualcosa da dire, già mi ha visto in faccia, non ha più problemi. Vieni, e me lo dico in faccia a vedere. Che ti scegli da giuburu, ma era toccato, che? Ma dimmi tu, c'ho 7 bidoni di dinta, di quella tinta da 25 kg, ben ai garraggio, li ha messi tutti vicino al cassonetto, capito? E poi uno scaldabagno e cartone, tutto in terra, lampato tutto in terra e se n'è andato, la discarica, compreso? Bastardo che non è altro quello lì, quello è un grande bastardo, veramente, guarda. Non è possibile, ragazzi, che un elemento debba essere di quel tipo lì. Quando mai, ragazzi, ha visto che sei, ce l'hai sul motocarro, vai a portare all'ecocentro, no? Lì ti chiedono il documento, se sei di Sassari ti fanno scaricare, se non sei di Sassari ti mandano via, ti mandano indietro, guarda, vai, portati il sito regato di un garraggio, perché è giusto così, perché i rifiuti sono a quintalaggio, no? Dunque noi più quintali di rifiuti produciamo e più sarà alta la tassa mondetta. Poi se si aggiunge anche la mondetta di certi paesi, è chiaro che qui la montare del peso sale moltissimo. E poi le parcelle arrivano a noi, arrivano la tassa mondetta, poi va tra tutti quanti i cittadini di Sassari. Non è che andare a fa, sì, che tu me la rega da Bloa, che la mondezza è... Sei caduto? Sì, mi sono trattenuto troppo, dopo una 60 secondi mi sembra che scatta e si interrompe. Io ce l'ho nel barret, però Gianfranco me l'ha fatto togliere, sono riuscito a toglierlo nel 950, se no che a me mi chiudeva la modulazione. Sì, ho capito, lo so perfettamente perché me l'hanno spiegato, capito? E infatti è per quello, aiuto, cioè chi ti pensano che magari noi del rione abbiamo fatto una cosa del genere, capito? Invece nel rione mio sono pulitissimi, ma pulitissimi veramente, e tutti dopo le 6 la sera, dopo le 18, dei cumentani dare i 4, scendono tutti con le buste, separano, fanno le bottiglie, il vetro, mi intendi, i bogoli, dum, dum, dum, scaricano il vetro, scaricano tutto. Il mio rione è pulitissimo. E chi ti viene a cagare a casa mia? Non è possibile. Non è assolutamente possibile. E infatti ti sto dicendo che quello l'ha presa buona, perché ho fatto prima di andare a Sydney il numero. Ho preso il numero di targa, ho fatto la foto numero di targa. E poi ci ho fatto un filmino a Eddo, ci vedi a Eddo pimpante in faccia, no? Perché sono vicini i cassonetti dal Poggiolo, capito? Oggi ho fatto bello l'inquadratura, non ho toccato, oggi ho fatto il filmino. E poi l'ho girato al comando della polizia municipale. Ciao, vedi se ti baciano macchini. Vai, grazie. Perché quello è uno stronzo. Se lui sarebbe andato via Montella all'autoparco, si avrebbe scaricati tranquillamente, sia tagliati lì, metà in quel contenitore, quella roba lì, svuoti, secchi, la plastica la metti in quel contenitore, e quando mangio il barato un po' con un galato, che fino già ancora la roba. Però l'ho portata lì, mia moglie le mette, no, la plastica la bonifica, questa roba la bonifica. Sono andato, niente, ho scaricato e me ne sono andato, tranquillo e facile. Boh, ci ho buttato anche 12 casse di sveglio che c'è proprio in campagna. Sicuramente non attaccavo più, tutto in giro, no, quando facevo le feste. Le ho portate a portare bene e non avuta, chi ne aveva drutto. E allora le ho buttate via lì a... Tutto c'è caggiuto, grazie a... E allora, poi un serio bucciato, dice, ma l'ho toppato il cazzo, vedete, dice che c'era il tubalato e c'era le bigliate, ma c'è andato lì. Ma ragazzi, io la settimana scorsa ho pulito tutta la mansarda, perché c'è un sacco di roba, tubi vecchi che non usavo più, antenne, cavi vecchi, tutto. E un motocarro deciduo, pieno, di Mondessa, però, di Mondessa, scatole, ho messo tutto le scatole di cartone, ho chiamato un amico, l'ha giù bagato e sta buttando tutto l'ecocentro, capito? Il cartone, per dire, lo potevo separare, buttare nel cassonetto, ma lo riempivo, la plastica la buttavo nel cassonetto della plastica, ma la riempivo, allora ho fatto tutte le scatole e sta girampando tutto, ho fatto portare via tutto al coso, all'ecocentro, capito? Perché lui lo può fare, che fa queste cose. Poi c'erano dei mobili che le servivano in campagna, sedie, eccetera, e gli ho dato tutto a lui perché le serviva in campagna, ma non sta già lampando nulla, pure era un gassonetto. E quando ho cambiato lo scaldabagno, per non chiamare, farlo portare via, ho chiamato all'ecocentro, mi hanno dato il numero, ho preso il nastro, l'ho attaccato, mi ha detto lo metta fuori, c'è il numero fuori del cancelletto dove abita lei, che domani mattina passano e lo ritirano. A Risi di Manzano non lo vedrai più, perché io sono uscito alle 7 e non c'era più lo scaldabagno, capito? Le cose bisogna farle bene, non lampazzire lo gassetto della Mondessa, perché non va bene, è inquinamento. Anche io in campagna ho fatto l'ultimo, ho telefonato, l'ha detto metta il numero, mercoledì passiamo. E allora il martedì sera l'ho messo già fuori dal cancello perché io mi venivo via a sta. L'umacolo a Manzano, Giorgio si sarebbe buttato lì, ma c'è la roba laggiù giù, per rubetto che non messo via più, cavalletti, di tutto di più, tutto si sarebbe buttato. Poi loro se lo smistano perché il ferro poi lo portano giù da Gosmino a Rubarrubiccio, a Porta Torre, se c'hanno i container, svoltano nel container, alle coccemino sale e si va a agganciare il container carico e sgancia quello scarico, se si mette a Rubarrubiccio. Rubesa e datene denaro comune. Eia, raga, io però qua spengo tutto, Sta arrivando un temporale, sta già piovendo. Spengo la corrente, dai. Potrei parlare con questa, ma spengo la corrente. Ci sentiamo più tardi, ok? Vi saluto per il momento, dai. Ciao Giulio, ciao Graziano, state attenti perché sta arrivando un temporale d'Alghero allucinante. L'aria nieda biriga. E ci sono fulmini in lontananza e tuoni, quindi bisogna stare attenti alle scariche. Dai, ci sentiamo più tardi se coincido, se no riterretevi tutti salutati. Ciao! Ciao Claudio, anche io adesso chiudo che intanto devo fare corsa. Ciao, domani se coincide. Ciao Giulio, ciao Luca, ciao chi c'è in tutta la ruota. Ciao Giulietta! Ok, ciao, ciao Claudio! Ciao Grazia, grazie per la chiacchierata, dai, ci sentiamo prossimamente, magari più tardi se coincide, oppure domani direttamente. Ok, Luca, l'ascolto sì. Sì, sono in ascolto, vi sto ascoltando che sto cucinando le lumache. Buone. E beh, preso la bevi il materiale che dovevi comprare da Fusaro. Sì, comprati giù, comprati. Io ho comprato, l'ho già piazzato, adesso domani mi piazzo l'altro. Sì, sì, perfetto. Guarda, sono contentissimo, perché serve sempre una ciabatta. Poi quelle lì sono buone anche, le avevo pagate, adesso non mi ricordo, boh. Se ne avevo pagate 20 euro, 22, boh, non mi ricordo. Mi dispiace, perché questo tastino faceva così, mi scarica. Nella 22. Sì, l'avevo presa da cosa, da cinesi, no, l'ho presa da, l'avevo presa, da. Adesso non me ne ammetto, va. Forse la Confora, no, forse la Confora, ma boh, non mi ricordo. Gianni, doppio rutto. Eh beh, già. Poi, sempre c'è la mitente, sì, eh? A noi piace parlare, ma la tua chi era? Grazie, Tore. Tore! Ciao, Luca Flipper. No, prima di Luca c'era un altro che è entrato, boh, mi ha salutato Graziano. No, ero io. Ah, e beh, già, a casa? Sì, dove vai? Solo che stavolta è stata con l'antenna della TV, non si sa mai, mi brucia tutto, ma sai anche il modem collegato al wifi, ti brucia anche il computer, me lo sai. A me me l'ha bruciato un paio di anni fa. E tu non lo senti a Gianni? Sì che lo sento, ciao Gianni. A me il router me l'aveva bruciato un paio di anni fa, due, tre anni fa, dai. E non solo il router, ma aveva bruciato anche i due baracchini, l'alimentatore, il router, e poi che cosa era? Un'altra cosa che adesso non mi ricordo nemmeno. Ah, avevo il 747, avevo, anche quello mi ha bruciato. Tutto è partito a un colpo. Io non c'ero a casa, stavo lavorando. Il giorno ho fatto temporale ed ecco che è arrivato e mi ha bruciato tutto. Ah, ti frega, bisogna stare attenti, perché se si è sfortunato cadi lì. Sì, ma la volta aveva fatto un disastro qui. Gente che ha avuto, ad esempio, gente che lavora qui, il generatore di corrente, il compressore dell'aria del gommista a 800 metri da dove era caduto il fulmine, su una palazzina a 200 metri da casa mia, a 800 metri di distanza aveva bruciato il motore del compressore di questa officina, la pasticceria qui lo stesso le aveva rovinato il gruppo elettrogeno, insomma ha fatto un casino del diavolo la volta qua. Tutto le punti, tutto i televisori, un sacco di cose aveva rovinato la volta qua già. Me lo ricordo che erano intervenuti anche i pompieri, mi pare che aveva preso poco qualche quadro della luce, qualcosa del genere. No, nella casa dove era caduto il tubo del gas, quello che entra dalla strada dentro casa, no? Lì si era incendiato. Sono arrivati i pompieri, hanno dovuto per spegnere appunto perché c'era il fuoco lì davanti alla facciata di questa casa. È un casino. È un amico mio una volta gli è caduto in campagna, addirittura gli ha troncato, gli ha spezzato l'albero, proprio un albero secolare di quelli grossi, gliel'ha buttato a terra e in più gli ha bruciato il motorino del pozzo e il computer, un sacco di roba l'aveva bruciato. Sì, una volta da Emanuele, buon'anima, in campagna, un fulmine gli aveva bruciato anche a lui il portasonda, avevano, no? Che lo utilizzavano in due, lui e quello di fronte a lui era l'unico pozzo e lo usavano alternativamente sia l'uno che l'altro, no? E c'era la cabina elettrica, la casetta dove c'era il contattore eccetera da Emanuele, il contattore, il pezzo più grande era quanto un centesimo, ha esploso proprio, ha fatto esplodere il contattore della luce, della corrente elettrica, e il giorno aveva bruciato anche questo motore, infatti poi hanno dovuto rifare il motore perché erano senza l'acqua, essendo in campagna lì non c'era la rete idrica e dunque si arrangiavano con l'acqua del pozzo già. Questo da Emanuele, buon'anima. Sì, sì, si fa un mal di danno. Mi ricordo che ha fatto danno anche da quel mio amico, ha fatto un bel di danno, che si è truccato un albero di olivo, mi ricordo di grossi. Tu che cacarella! Terra. Ma quello è successo anche nel campo dei punti, nel campo di Roberto Quadrato, anni fa. Tu che Cecilia! È successo anche qua. E c'è per quello anche lì alla Teroccia, ti ricordi di Luna Rossa, Vittorio Luna Rossa? E a me mi aveva detto che il fulmine gli aveva spezzato il palo, tanto per darti un'idea. E dunque era caduta l'antenna sul tetto. E questo me l'aveva detto la buon'animo di Vittorio Luna Rossa. Sì, l'aveva bruciato il Saturnecco. Gli aveva bruciato il Saturnecco, certo. Anche quello, che pure l'ha dato, mi sembra che l'aveva dato a Mario, l'aveva regalato a Mario. Mario.